che si imprime dentro un marchio. L'evoluzione che riesce a dare un cerchio. Tu cotone spray per creare il varco. Testa calda e stai per dipingere il tuo specchio. Casa mia è l'odore del caffè appena fatto. Seduto al tavolo, abbizzo lo stereo. Bozzo blocca accento come Dario. Bros più di Mario. Mi arrampico dai tubi e punto dritto sul binario. Vestito serio, tutto nero. Mi insinuo tra i vagoni con lo zaino mezzo pieno. A meno che sento un colpo sordo, chiaro come i passi di qualcuno ancora a bordo. Raggiungo il bordo, mi porto sotto. Attraverso due vagoni per il lato corto. Mi assicuro nell'oscurità per certo. Aspetto tergiverso fino a quando intorno è pronto. Esco allo scoperto per tracciare un tot botto. Salgo sul lampione per taggare questo pezzo. In quest'ora tarda da pupilla allarga. I raggi blue moon per tracciare il passepartout. Su noi come Gesù, giù noi come festù. Rappresento la mia crew assieme a mio fratello Zuff. Rap e prof, saluto la 3F. Dal 95 siamo la IMS. Zero stress come graph, RD come staff. Uso il mio tag come migliore delle tre. Ed è il tuo stile che si imprime dentro un marchio. L'evoluzione che riesce a dare un cerchio. Tu cotone spray per creare il varco. Testa calda e stai per dipingere il tuo specchio. Ed è il tuo stile che si imprime dentro un marchio. L'evoluzione che riesce a dare un cerchio. Tu cotone spray per creare il varco. Testa calda e stai per dipingere il tuo specchio. Risultato di uno schizzo, realizzazione di un progetto. Messaggio scelto dentro al ghetto. Impiego la serata lasciando con la bombola una scia tipo lumaca. Resta quel muro l'unica mia meta. Fisso il colore sopra la mia preda. Spingo il mio tratto evolvendo il lettering. Vaso pure asfalto, dinastia dei Ming. Accorto il tempo in nero meglio di Luther King. Fomenti mutamenti peggio dello zapping. Tappi su tappi comprimono gesti di espressione. Colpi su colpi devastano ogni superficie in circolazione. Nessuna esitazione, pezzo in corso. Divido l'attenzione tra il dipinto e il resto. Rilancio la reputazione di questo posto. Ed è il tuo stile che si imprime dentro un marchio. L'evoluzione che riesce a dare un cerchio. Tu cotone spray per creare il varco. Testa calda e stai per dipingere il tuo specchio. Ed è il tuo stile che si imprime dentro un marchio. L'evoluzione che riesce a dare un cerchio. Tu cotone spray per creare il varco. Testa calda e stai per dipingere il tuo specchio. Sostanza sicula dall'ultima costa. RG. Sostanza sicula, voci sul beat. Suona la RD, suona la RD. Sostanza sicula, voci sul beat. Suona la RD, suona la RD. Autoproduzioni a RD. Sontensi. Coach.